So che respiriamo nello stesso sole rosso, sotto lo stesso cielo. Dimmi dove vai, credi nel destino, io ti sto vicino, vivo dietro il tuo passo lento. Sono un uomo solo, scrivo il mio futuro, frasi dietro un muro e dentro, non so più cosa è giusto, non so più cosa è giusto. Qui non c'è nessuno, solo nel profumo dell'autunno che all'inverno sta già cedendo il passo. E la pioggia cade, va incessantemente, muore quando tocca il mare, come se la inghiottisse un sogno, se la inghiottisse un sogno. Raccogli le foglie, foglie spazzate dal vento, che il tempo non può capire, che il tempo non può sfiorare, riscalda le mani fredde bagnate dal pianto, tu sola mi puoi guarire, tu sola mi puoi salvare. Sono disarmato, non ancora arreso, mi sono difeso troppo e adesso sono stanco, e che non resisto più ai tuoi occhi, tu lo sai, ai sorrisi che mi fai, sento che sto morendo. Svelami il segreto, io non l'ho capito, sono appena nato eppure mi sono già appassito. Mi fa male, tu lo sai, il tuo odore sopra il mio, non so più che faccia io, giuro mi sto perdendo, giuro mi sto perdendo. Raccogli le foglie, foglie spazzate dal vento, che il tempo non può capire, che il tempo non può sfiorare, riscalda le mani fredde bagnate dal pianto, tu sola mi puoi guarire, tu sola mi puoi salvare. Senti che ti...